Lui nato nel giorno del topo maschio di metallo, nel mese delle pecore terrestri, nell'anno delle scimmie d'acqua dolce, esattamente all'ora di Ho Chi Minh. Nell'era del serpente viscerale, legato con catene d'animale, nel modernissimo occidente medievale, pianificava il giorno e l'ora per scappare. Lo avevano trovato in fragranza di reato, a cantare con il cuore sul drago del sole, un cuore sopra un drago parla chiaro. Lui vuole sovvertire l'ordine delle cose. Bisogna offrire il pane a chi ne ha meno, piuttosto che diamanti a chi può dar veleno. Cantava sopra il drago e predicava amore, cantava che contava anche chi non conta niente, che si può dar la mano persino a un deficiente, senza considerarlo il cibo del serpente. Il serpente, evidente, non la prese bene, l'ordine mondiale lo fece condannare alla pena capitale. Ma lui proprio nel giorno del topo maschio di metallo capì che c'era ancora via di fuga, ipnotizzando il centro del sistema col canto della vecchia tartaruga. Evase di prigione così semplicemente, fece cantare al topo, alla scimmia del serpente, quella canzone che da sempre aveva in mente e che faceva quel vecchio motivo, aspetta. Bisogna offrire il pane a chi ne ha meno, piuttosto che diamanti a chi può dar veleno. Non è morale o bello fare male, nel nome di uno strano bene superiore. Questo è l'anelito che parte dal cuore e parla la lingua della rivoluzione. Quindi lui proprio nel giorno del topo maschio di metallo pensò di sobbedire, molto bello, è bello dare il pane per battere la fame ed affamar d'infame. Quindi lui proprio nel giorno del topo maschio di metallo eliminò soltanto con il canto la finta narrazione liberale e tutto il mondo si mise a cantare. Bisogna offrire il pane a chi ne ha meno, piuttosto che diamanti a chi può dar veleno. Non è morale o bello fare male, nel nome di uno strano bene superiore. Questo è l'anelito che parte dal cuore e parla la lingua dell'amore e della rivoluzione.